Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Oggi ho voluto approfittare finalmente del metafisico dessert offerto lungo i treni italiani. Sto mangiando quello che è il dolce del dolce salato, che sarebbe un fagottino di non so bene che, riempito di non so bene cosa. Mentre mangio e sto sbriciolando ovunque, di fronte a me non posso fare a meno di osservare, compita e anche lievemente scandalizzata, una signora che avevo già incontrato in un altro viaggio. Mi sono spremuto perché è difficile, scusate, il boccone in bocca è un po' difficile mangiare, mando giù un bocco d'acqua, un goccio d'acqua. Lo so, questa è radio a tempo reale, lo so che farà un po' schifo a qualcuno, ma è così. Dicevo, vedo questa signora compita che mi guarda con un certo sguardo di rimprovero. Poi la riconosco, me la ricordo, sì, era la donna che era uscita dall'angustia della sua vita solitaria e vilipesa andando a cercare amori in internet. La rivedo, mi sembra soddisfatta, mi sembra contenta, mi sembra desiderosa di continuare il suo racconto e quindi non trovo maniera migliore per poter tacere e finire in tempo il mio pasticcino delle ferrovie italiane che farla parlare. L'altra volta mi hai accennato però. L'altra volta sì, ti ho accennato e... Ma ti vedo molto più soddisfatta. No. È che ho fatto altre esperienze, alcune positive, alcune negative. Sempre con la pesca a strascico sui social network. Sì, da troppe soddisfazioni. Sì. Per un periodo ho interrotto perché avevo altre cose da fare, poi adesso ho iniziato di nuovo. Ma cosa hai cambiato? Hai cambiato foto, hai cambiato messaggi? Ho cambiato foto, guarda, devo dire che c'ho un riscontro decisamente molto, molto positivo. E che studio di marketing hai fatto? Cioè, com'è la foto nuova rispetto a... La foto nuova è molto sorridente, quindi... E l'altra era più triste? L'altra no, io sorrido sempre, però comunque... Non lo so, forse questo è il sorriso più accattivante. Ma basta mettere una foto carina e subito la gente ti cerca? Sì. Subito? Assolutamente sì. E cosa dicono? Voglio conoscere. Il tuo sorriso è molto accattivante, molto intrigante, quindi il sorriso colpisce. Quindi, vabbè, se il mio sorriso colpisce, io punto su quello. Ma qual è la media dei messaggi che ti fanno per... I messaggi, sei molto carina, mi piaci molto. Ma cosa sono amici dei tuoi amici? Come fanno a vedere che ci sei? Amici dei tuoi amici? Sul sito sei comunque a pari con la foto, con la descrizione che comunque tu ti fai. Io ho messo una descrizione molto strana perché... Cos'è scritto? Generalmente si mette, sono molto solare, sono molto positiva, invece... bla bla, tutte sei. Io non ho messo questo, sono esattamente quello che l'uomo vorrebbe trovare in una donna, quindi bella, giovane, oca al punto giusto, bla bla bla, e poi sono decisamente bugiarda. Disponibile a qualunque cosa. Questo vuole un uomo. Sì. L'hai fatto capire. E poi ho messo sono bugiarda. E quindi gli uomini mi sembra avere una donna bugiarda. E quindi, capito. Ma vedi, è intelligente come... E quindi di nuovo cosa c'è? Di nuovo l'ultima cosa carina che mi è successa, questa è veramente una cosa da che te la devo raccontare, perché ho incontrato una persona, tra l'altro anche una persona intelligente, una bella persona, però laddove sono andata a trovarlo a casa, poi mi sono tolte i miei monili, anelli, braccialetti, cose. Te l'ha fregati? No, li ho messi lì sul suo mobile, poi sono andata al bagno, sono tornata e lui mi aveva messo tutti questi oggetti sopra ad un tovagliolino perché pensava che io li potessi rovinare il mobile. Cioè, i tuoi monili, i tuoi diamanti avrebbero graffiato, ma che era un mobile d'arte? Ma assolutamente no. Cosa dell'IKEA. Infatti, quindi mi ha messo queste cose. Cioè, ha messo un tovagliolo sotto? Ha messo un tovagliolino di carta sotto, sì. Che schifo, almeno fosse stato un fazzoletto di seta. Un fazzoletto di seta, no? Ricamato. Pezzetto di Kleenex che era pronto lì sul comodino. Sì, l'ha messo. Sì, una roba drammatica. Sì, sì. E beh, quindi questo è bastato per rivestirti e andartene. Assolutamente sì. Oh, beh, finalmente c'è giustizia al mondo. Sì. È un uomo così pitocco. Madonna, non lo so come definirlo. Ma cosa gli hai detto? Cioè, ma come ti permetti? Ma che cos'è sta roba? E lui dice, no, perché sennò mi graffi immobile. Dico, ma sei impazzito? Quindi mi sono rimessa tutti i miei monili. Brava, oh, e l'hai mollato così. Certo, dai, sì. Non sta può... lì col... Sì, sì. Comunque, ecco, c'è una... Con lo straccetto a lucidare il suo nome. Sì, anche perché mi ha guardato se io gli avessi sporcato poi i pavimenti, perché... Beh, ma è un malato. È un matto. La casa com'era? Pulitissima, asettica. E lui com'era come persona? Uguale. Era bello, un bell'uomo. Un bell'uomo, sì, sì, un bell'uomo. Poi a mania dell'igiene. Che ma ti ha detto, vatti a lavare. No, questo non me no, per capire. No. C'aveva la mucchina sul comodino. Tanto sì, quasi, quasi, sì. Vabbè, terribile. Allucinante, sì, sì. Ma almeno un bacio l'avete dato. Sì. E lui sì. C'aveva lo spray subito, si è disinfettato. No, ridi. No, questo non l'ha fatto. E lui che ha fatto quando tutto è andato? Niente, vabbè, si è reso conto che magari aveva esagerato, comunque è finita qua. Beh, però... Ha avuto un incontro però, diciamo, un contatto. Sì, sì. È stato molto sterilizzato questo contatto. No, perché cioè, aveva messo un telo di nylon fra voi due. Bravissimo. No, non dire, no, non è vero, dai. Adesso stai. Guarda, dicendo. Non era tra noi due, ma era sotto noi due. Sul lenzuolo aveva messo un telo di plastica. No, sì. Non è possibile, guarda. Ti giuro, questa la traversina cosa... per gli anziani incontinenti. Questa cosa io me l'ero dimenticata, me l'hai fatta venire in mente no, tu. No, no, perché... stai dicendo una stupidità. No, no, ti assicuro che sto dicendo la verità. Ci ha aperto il letto, cioè, scusa, stendo il telo. Aspetta un attimo, metto questa l'incerata. No. Sì. Ma volete stare stesi sopra l'incerata. E tu l'hai accettato. C'era la spugna, non era proprio nylon. E l'hai accettato. Cioè, ma sai che queste cose ti spiazzano comunque, queste cose. It was a curse, soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love gone behind. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Adesso capisco il perché di quello sguardo indagatore e pieno di rimprovero della signora che mi osservava nel mio tristerrimo e solitario biascicare la merendina del treno. Questa signora è rimasta ormai condizionata, probabilmente lo sarà per lunga parte della sua esistenza, dal maniaco dell'ordine. Il maniaco dell'ordine è qualcosa che in realtà galleggia soltanto nell'immaginario della commedia, del cinema. Verdone ne fece uno perfetto, meraviglioso, ossessivo, ma quando lo si incontra nella vita quotidiana probabilmente è una di quelle forme di maniacalità che meno vengono all'occhio. Anzi, uno rimane piacevolmente colpito dal fatto che una persona abbia una sorta di ordine delle cose, come mi insegnavano i miei nonni, corrispondeva all'ordine delle idee. Ma quando questo poi corrisponde a mettere la traversina di spugna nel letto in cui si sta per consumare un atto d'amore o nell'allineare in maniera maniacale tutti gli oggetti sul comodino quando si porta una donna a compiere il culmine di un atto amoroso, evidentemente qualcosa che non funziona comincia ad emergere. E comunque tu, diciamo, vabbè, sei, dai, hai ceduto, va bene. Sì, okay. Alla fine. E dopo cosa è successo? Dopo è andato a disinfettarsi. È andato a misurarsi la pressione. Non è possibile. Ma esistono uomini così? Sì. Ho detto, scusa un attimo, mi sento un po' giù. Dico, scusa, ma che stai facendo? Dice, sai, perché a volte sono irruento. Ma era irruento, ma no. niente di che. Cioè, e si è misurato la pressione. Si è misurato la pressione. Che uomini tristi. Già, non è durata molto questa beh, cosa. Beh, vorrei vedere così. Anzi, capito? Proprio niente. Magari ti mandava, mandava l'avvocato e chiedeva i danni. Danni fisici. Io non ho provocato ma nessun non è, danno. Non è spotizzante un uomo così attento a queste cose? Non ah, per so. Quanto mi riguarda, sì. Tra non c'è, lui come non fai a lasciare andare un con un uomo del genere? È impossibile. Infatti non è proprio possibile. cioè all'inizio non lo conosci, quindi questa cosa è anche disarmante, no? Uno si spiega anche perché vive solo poi un uomo così. Ovvio che sì. È impossibile, pensa a viverci una, non dico una vita assieme, ma averci una storia. Mamma mia, tutti i barattoli messi tutti quanti esattamente nell'ordine, per grandezza, per altezza, per scadenza, per... Di mestiere che faceva, ossessivo. Per capire? Non mi ricordo. È un malato totale, veramente. Sì. Però l'approccio, come ha fatto a affascinarti al punto di volerlo? Comunque è un bell'uomo, un uomo intelligente, un uomo anche con una bella presenza fisica, un bel modo di parlare, una buona dialettica. Però aveva questo segreto nascosto. Che io non potevo sapere. Era un maniaco dell'ordine della polizia. Sì, ecco, la sua macchina era anche lei molto pulita, molto quasi asettica, quindi... Però sai, ci sono le persone pulite che comunque non possono farti che la polizia non dispiace, bello. Ma certo, laddove si esagera, come in tutti i campi, poi no. Ma la traversina. Infastidisce la traversina o piuttosto che il fazzolettino. È disarmante questa cosa. Vabbè, qualcosa di meno triste. Qualcosa di meno triste, ma che vuoi? Cioè, poi alla fine... Sai, gli uomini sono estremamente molto bugiardi, fanno della bugia la loro ragione di vita quasi, no? Sì, questo è vero. Questo è verissimo. Sì, sì. Anche le donne, però gli uomini, vabbè, io ti parlo dall'altra parte, se magari avessi avuto dei rapporti con le donne magari potrei considerare anche loro, ma non l'ho fatto, quindi ti parlo degli uomini. E lo stereotipo dell'uomo sposato, non sposato ovviamente, che si presenta come se non lo fosse, è comunque una consuetudine, quindi... Cioè ancora bleffano gli uomini sposati, sono solo. Incredibile, sono solo. Perché rimane, cioè c'è il segno bianco della fede. Infatti, il segno bianco non abbronzato. Ma poi chissà, perché le donne non credo che abbiano problemi, sono sposato, se gli piace che gli importa. Ma chi se ne frega, cioè io non ti sto chiedendo niente. È un retaggio niente. Antico. Sì, ma poi ecco una delle ultime situazioni è questo tipo con il quale io ho chattato per parecchie sere, quasi 40 giorni, con delle chat quasi erotiche. Una quaresima proprio. Anzi, non quasi, ma proprio erotiche. Cioè con la telecamera vedevate? No, assolutamente. Ah, solo no. Era soltanto scrivendo. E poi ecco, al momento poi di concludere lui si è eclissato. E quindi non l'ho più visto, io non l'ho mai visto. Cioè l'ho visto una volta qualche mese fa, poi quando... E sono questi che vogliono soltanto, diciamo, godono del preludio, ma non vogliono mai arrivare a... Ma sono allucinanti. A rendere azione, ma così sono. Sono allucinanti. Sai perché io penso... Molte volte sono persone sposatissime. Infatti, sì, sì. E questa è la loro compensazione. Non hanno il coraggio di un vero e proprio atto. Allora. Non hanno coraggio, sono vigliacchi. È come se qualcuno giocasse. Si accontentano di questa cosa, hanno il senso di possesso di una persona. Ma così triste. Beh, ti ruba l'immaginario, ti ruba l'intimità. Ho capito, però... ma non c'hai 20 anni, ce n'hai quasi 60. Ma loro poi dovrei... non vogliono arrivare al momento della verità. Non se la sentono, forse non sono manco. Non sei si sentono impotente. Sì, probabilmente sì. È come se qualcuno giocasse dei numeri all'otto per una settimana, due, tre, due mesi, no? Poi laddove vinci, strappa il biglietto. Ma sai, con la moglie hanno visto che gli tira e quindi stanno tranquilli. E non vogliono rimettersi in gioco un'altra persona. Ma lasciale stare allora queste persone, non stai perdendo però... il tuo tempo. Ma no, loro sono appagati, così ci vedi questa cosa l'ha scritto, così poi passano ad altro. Che si ammazzano, diciamo, con le loro stesse mani. Vabbè, certo, penso di sì. Certo, quello sì. Penso di sì. Ma come i ragazzini, appunto, forma, cioè, infantile. Mi sta bene a 15 anni, ma non a 60. Sì, però anche te, dopo 40 giorni, dovevi averlo capito. Io pure, cioè, sono ostinata. Ma no, ma una persona normale, dopo un po' che ti scambi, beviamoci un caffè una assieme. Una persona normale, detto bene, ma non lo so. Beviamoci un caffè, vediamoci, mica per forza devi sempre chissà far che. Certo, anche, certo. Vabbè, ma sai, anche le lontananze, perché poi alla fine abitavamo in due città diverse, quindi... Sì, anche ma sai, una volta sono sbilanciati sul piano onirico, poi non hanno il coraggio di mostrarsi, farsi una risata magari, dire, sai, cioè, abbiamo scherzato. No, ma infatti è quello che io vorrei che si facesse, però per fare questo c'è bisogno di una sorta di autoironismo che non tutti gli uomini posseggono. Perché tu la prendi come un gioco, la prendi leggera, per loro hanno intanto il senso di colpa profondo, che lo fanno... Cara, devo lavorare, scusami, ho la contabilità del negozio, dell'attività, di quello che è, della ferramenta, di quello che hanno, capito? E si chiudono nello sgabuzzino, si smaneggiano per un paio d'ore e poi vanno tranquilli a dormire, belli placati, ecco. Oppure con le loro mogli, perché magari si caricano da un'altra parte. Vabbè, forse caricano, è l'unica maniera per scaricare sulla moglie questo. Che vergogna. Povera moglie. È mal mondo, va così. È meglio sola. È meglio sola che avere un marito così. Non ti preoccupare che anche le mogli hanno le loro risorse. Non lo so, che appunto, ripeto, non le ho mai conosciute le mogli io. Ma io conosco i mariti. Vabbè, poi invece? Cosa? Quindi, quindi non è che hai rovinato proprio famiglie, te? Io assolutamente no, ma io hai messo non oserei. Famiglie già rovinate. Non oserei, ma io, ma laddove sento l'odore di uomo sposato fuggo, perché non voglio assolutamente. Beh, non esagerare. Ti assicuro, non mi interessano gli uomini sposati. Ce ne stanno tanti liberi. Poi uomini, insomma, parliamo di maschi, perché gli uomini, dai, gli uomini. Il tuo target età qual è? Quarantenni, cinquantenni? Ma anche un po' di più. Se uno è libero è un vedovo. Un vedovo, un separato, un divorziato. Ah, un divorziato. Un single. Single a 50 anni. Là la vedo dura, perché se sei stato solo per tutti questi anni, qualche problemino ce l'hai. Altro che la mucchina sul comodino. Lì sono degli scheletri nell'armadio che non. No, però il tipo della mucchina è stato sposato per tanti anni. E la moglie dove è finita? Si è suicidata? Forse. Ha fatto la fine di Tosca di Verdone. Ma poverina, certo. Esattamente il personaggio di Verdone, vero? Guarda, era lui. Era lui. Fissato il marito di Tosca. Sì, sì, era lui. Vabbè, adesso cosa farai? Continuerai a buttarti? Adesso continuo, perché in realtà questa cosa mi sta divertendo. La sto prendendo con un altro. Un altro spirito. Con un altro spirito, sì, perché prima ero molto più. Prima ci credevo, no? Che potesse esistere una persona seria dall'altra parte. No, adesso sto veramente. La persona seria non perde tempo. Quindi mi sto adattando a quelle che sono le situazioni diverse che sto incontrando. Senti, non hai paura ogni tanto sui giornali. Signora uccisa, trovata squartata, strangolata. Sì, infatti le mie amiche mi dicono che gira gira mi troveranno in un cassonetto, però sai, fa parte del gioco. Ma quali sono i tuoi sistemi di sicurezza? Sai che ci sono. Tu dovresti sempre, il primo appuntamento, non andare mai da sola o dirlo a un'amica, guarda, mi le vedo. Mie amiche sono sempre avvertite, ecco, sì, i numeri di cellulare del tipo col quale esco ce l'hanno sempre in due o tre persone. Non vado mai in posti a rischio, non salgo mai nelle loro macchine, almeno al primo incontro. Beh, a casa però ci sei andata. Sì, vabbè, però lo conoscevo già da qualche tempo, insomma, ci sentivamo. Poi, cioè, pure un po' a naso, no? Perché poi le ragazzine si buttano. Cioè, tu dici a un'amica, guarda, stasera esco con questo è il cellulare. Se domattina non ti chiamo, datti da fare, così. Sì, fa così che vabbè, questo è un buon sistema. Sì, sì, vabbè, l'unico che conosco. Trovano il gel del cadaverino, ma però perlomeno. Sì, però sanno a chi andare. Sanno chi andare a cercare. Certo, certo. Vabbè, cara, in bocca al lupo. Spero grazie. Di rincontrarti viva la prossima volta. Grazie, è un buon augurio, buona giornata. Ciao, buon viaggio, ciao. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Tra i tanti personaggi che mi capita di incontrare, soprattutto alle partenze, dopo gli stalli alle stazioni, ci sono i mendicanti creativi. Ci sono vecchi format, c'è quello che prima passa, lascia una sorta di bigliettino santino di fronte al tavolino di ogni viaggiatore seduto, senza dire nulla, lo lascia lì. Uno dice, guarda questo bigliettino, c'è scritto, sono un povero ragazzo sordomuto, ho dei problemi di vario tipo, per favore aiutami con varie indicazioni. Poi ripassa, li riprende la maggior parte delle volte, senza che nessuno dia il becco di un centesimo in questa cosa qua. Un altro è il fantastico e mitologico venditore di calzini in fibra sintetica al 100%, che entra alle stazioni, a Roma capita spesso, c'ha una sorta di manicata di calzini orrendi, e tutti blu, grigi e neri, e anche bordeaux qualcuno, che sono i peggiori, fatti in plastica sintetica, che trasformerebbero stinchi e caviglie delle persone che li mette in qualcosa di scheletrito e purulento. E anche lui passa, nessuno vuole i calzini, ma per levarsi dalle scatole qualcuno magari gli dà anche qualche soldo. Questo mi fa pensare a una classificazione che mi è capitato di fare e che vorrei ricordare oggi, dei format della creatività dei mendicanti. Esiste una sorta di filo comune nelle persone che chiedono l'elemosina, che molte volte fa pensare esista una grande mente organizzatrice, come se ci fosse un grande vecchio, un grande autore che studia, immagina il format, lo mette a punto e poi lo diffonde in tutte le città italiane. Ho studiato alcuni di questi uomini e donne che vivono trasparenti tra la folla dei folli che si sposta attraverso la città. Sono classificabili in alcune categorie di personaggi sempre uguali nonostante si muovano in luoghi anche molto distanti tra loro. L'impressione è che siano corpi speciali di un esercito che clandestinamente stia occupando punti strategici dissimulati sotto le pietre dei marciapiedi o nelle gallerie delle metropolitane o vicino a chiese o monumenti. Ho concluso che esista un comune modello, un format, per questuanti, dal momento che ovunque si presentano con lo stesso costume, gli stessi accessori, le stesse frasi, gli stessi cartelli. A Roma, nel pomeriggio di Pasqua dell'anno memorabile del neo eletto Papa Francesco, come sempre accade nei giorni di festa, si passeggia a frotte lungo via dei Fori Imperiali. Di fronte ai mercati di Traiano, un signore vestito da Papa e molto somigliante a Karol Wojtyla è seduto su una sedia piazzata sul marciapiede. Il finto Papa è veramente fantastico, va. Tranquillo, beato. Ma come le è venuto in mente di fare il Papa? Non lo so. Un giorno si è svegliato. Lei mi registra? Certo. Sì. Lei sta per strada, la registro. Vedo il Papa per strada. Lei registra tutto? Tutto registro, tutto. Trovo fantastico il suo lavoro. Nessuno potrà protestare, figuriamoci. Buona giornata, mi benedice. Buona Pasqua. Può benedire? No. Non si può fare questo. Ah no, fai il Papa finto questo sì. Il Papa no, invece si può. Indossa l'abito bianco e la papalina d'ordinanza, siede, ieratico, come se stesse pregando, assorto nella lettura di un breviario che tiene tra le mani. Ogni tanto alza gli occhi, sorride, fa un gesto di saluto con la mano e invita i turisti stranieri di passaggio a farsi fotografare accanto a lui. Pochi metri avanti, solo un giorno e mezzo prima, c'era la Via Crucis con il Papa vero. Forse questo signore avrà pensato di mettersi sulla scia dell'evento e magari provare a far credere a qualche viaggiatore molto poco informato che il Papa quasi santo fosse consueto tornare in quel posto il giorno di Pasqua a godersi il passeggio mentre legge il suo breviario come un curato qualsiasi. In effetti, chi lo incrocia all'improvviso, seduto tra le statue degli imperatori romani, con alle spalle la torre da cui svetta il vessillo dei cavalieri di Malta, resta a bocca aperta, non capacitandosi di come sia possibile quello che sta vedendo. La tentazione di fissare tutto in una foto ricordo è irresistibile, infatti il piattino delle offerte ai piedi del finto papa non langue. In quel luogo, in quel momento, per chi entra nello spettacolo, può starci anche un papa fasullo seduto per strada. Sembra di avere varcato lo Stargate che mette in comunicazione una dimensione parallela in cui ogni assurdo sia possibile. Su questo forse gioca il finto papa, che tenta di sbarcare il lunario mettendo in scena la più folle e surreale delle pantomime possibili a Roma. Lo pseudo Wojtyla non è il solo a millantare in quel posto denso di storia. Nel tratto tra il Vittoriano e il Colosseo si possono contare ben 4 gruppi di finti maestri yoga vestiti d'arancione. È il format di attrazione on the road più di moda nella capitale dopo la messa al bando dei finti centurioni. Frutto della globalizzazione e della confusione fanta-esoterica, vorrebbe far credere che, per poteri paranormali, un signore del Bangladesh, seduto a terra, possa sostenere con una mano un suo mistico collega, accovacciato in perfetto equilibrio sulla cima di una canna di bambù. Si tratta di questo. Arrivano 3 signori con dei borsoni nell'angolino strategico di una piazza affollata di turisti. Estraggono un enorme sacco nero di plastica e lo indossano come fosse una tenda canadese. Dall'esterno, una piccola folla inizia a radunarsi incuriosita di tutto quell'armeggiare dentro al sacco. Passa un bel po' di tempo perché l'allestimento è complicato. C'è una struttura metallica a Z su cui uno dei 2 monaci arancioni è seduto. E passandogli dietro la schiena e attraversando una manica della tunica, in realtà funge da solido supporto al tubo dove l'altro sembra accovacciato in equilibrio, ma in realtà è seduto su una piccola piattaforma e fa parte della costruzione. Una volta scoperchiata, la mistica monade resta immobile e ieratica come se fosse immersa in profonda meditazione.

perché questa casella diventa il tramite essenziale fra chi vuole fare un viaggio in treno con me e ci ascolta. E viaggiare in treno con me non significa necessariamente sedersi accanto nello scompartimento e parlare. Si può parlare anche a distanza. Qualcuno già l'ha fatto e qualcuno ancora lo farà. Lo ha fatto questa donna che mi racconta, non so perché proprio a me, la peggiore delle persone, il più scriteriato dei consiglieri, il pessimo per eccellenza, a cui si confida un segreto che in fondo è il punto di caduta di ogni equilibrio matrimoniale, la disgraziata vicenda di una signora che continua a tenersi vicino a un marito che non è più un marito, ma un marito di tutte e forse un po' anche di lei. Mi chiamo Giulia, ho 48 anni e 2 figli. Penso di essere una brava madre. Ho dovuto imparare ad essere anche un bravo padre, perché quando divorzi da un uomo come mio marito non puoi fare altrimenti. Sono divorziata da 10 anni dall'unico uomo della mia vita, conosciuto a 17 anni, e sposato subito perché a quell'età l'amore è stupido e totale. Dopo poco rimango incinta di Marco e mi sento una donna privilegiata. Lui intelligentissimo, brillante, vulcanico. È diventato un architetto in gamba. Ha viaggiato, ha fatto carriera all'estero, ha insegnato. Ha trascinato persone nei suoi progetti. E io pensavo, com'è diverso dai mariti delle altre donne. Le donne scelgono un uomo a seconda di quanto possa più o meno assomigliare al loro modello ideale. Questa donna non aveva certo in mente un omarello di casa, una persona tranquilla, un uomo domestico, un uomo in pantofole che si addormenta sul divano. Voleva un uomo splendente, voleva un uomo eccellente, voleva un uomo che le amiche potessero invidiarle. E la sorte con lei è stata molto generosa. Poi arriva la porta in faccia. Scopro segni di piccoli e grandi tradimenti, telefonate, incontri. Scopro lentamente, ogni giorno, che mio marito ha una vita parallela che io non avevo mai nemmeno preso in considerazione. Ed è come scoperchiare il vaso di Pandora. Una volta che inizi a sapere, non puoi più fermare la catena di eventi incontrollabili e assurdi. Le persone come mio marito sono narcisi, fragili e bisognosi di conferme. E non è difficile riuscire a capire cosa sta succedendo e farmi raccontare tutto. Scopro che ha un amante da mesi, una donna sposata anche lei. Scopro che lei, innamoratissima, riesce a rimanere incinta per obbligarlo a parlarmi, a lasciarmi e a iniziare una nuova vita con lei. Lui, grande stratega, prende tempo e mi propone di fare un secondo figlio. Certo, non si tratta di un professionista. Il vero professionista non ammette mai, nega sempre, anche di fronte a ogni evidenza. Evidentemente questo è un uomo molto sicuro di sé e anche molto sicuro del fatto che una donna può essere considerata tale e un amante allo stesso tempo può essere considerata un amante fino in fondo solamente se gratifica l'uomo dando lui un figlio. Quindi, dopo aver generato un figlio con l'amante, non gli sembra migliore occasione quello di bilanciare e fare anche la moglie felice dell'immenso regalo di fare un altro figlio con lei. Io vedo in questa richiesta tante cose: la conferma del nostro legame, del suo voler stare con me per sempre, del suo desiderio di famiglia. Rimango incinta e lui a quel punto può comunicare alla sua amante che non può lasciarmi perché è incinta e per giunta malata, un particolare che rafforza la sua necessità di rimanere in famiglia. Dopo qualche tempo ho poi scoperto che lei ha riconquistato suo marito e ha fatto passare il figlio che aspettava come suo. E mio marito non ha avuto nulla in contrario. In fondo, quale miglior modo per sistemare la faccenda facendo tutti contenti? Ci siamo separati dopo la nascita del secondo figlio. E da lì è iniziato per me qualcosa che definire un calvario è minimizzare. Il mio ex marito ha ripreso le sue trasferte estere, costellate di innamoramenti lampo, di infatuazioni, perché lui, dice, si innamora. Ma le donne che incontra pretendono poi la fedeltà, capisci? A te posso dirlo che sei ormai la mia unica amica. E questo me lo racconta mentre mi porta il sabato le camicie da stirare. E mentre si organizza la partita di tennis e i 10 minuti in cui accompagna i figli da qualche parte o fa finta di passarci del tempo. Io ritengo che in ogni infamia amorosa si abbiano sempre dei complici. E molto spesso chi fa la vittima è complice, anzi è istigatore o istigatrice dell'atto inconsueto e sconsiderato e dissacratorio. Questa donna era perfettamente consapevole della specularità fecondativa del suo marito e l'ha accettato. E quindi in fondo non può essere che a lui grata del fatto che, grazie allo scellerato comportamento di padre e di marito infedele, lei possa per il resto della sua vita, con tutti, fare la parte della martire. Sono 10 anni che io fingo di essere forte, civile, sorridente, razionale. Sono 10 anni che ai miei figli faccio vedere quanto sono bravi mamma e papà che si sono separati e non litigano. Anzi, andiamo in vacanza tutti insieme. E chi ci vede pensa pure che siamo ancora sposati. Sono 10 anni che mia madre mi rimprovera di non essere stata capace di tenermi mio marito. Sono 10 anni che sotto l'ufficio ogni tanto trovo qualche uomo incazzato con me perché mio marito ha una tresca con la moglie o con la fidanzata e mi ingiungono di tenermelo a casa. Io che mi sento esplodere di rabbia ogni volta che lo vedo e sento i suoi racconti. I miei 2 figli sanno e non sanno. Marco, il più grande, ha capito tante cose ma non sa tutto. Sa che c'è un fratellastro da qualche parte ma non ne vuole parlare. Mi protegge. Ma è felice se il padre esce con lui. E io voglio essere per loro un esempio di equilibrio. Non mi hanno mai vista piangere. Non voglio che pensino che la madre ha dovuto sopportare o che si è dovuta sacrificare. L'esempio del sacrificio ricade sempre come una colpa sui figli. E io questo non lo voglio. Non chiedetemi fazzolette per asciugare le lacrime degli amori infranti. Non chiedetemi una spalla per appoggiare il capino dolorante dopo un così importante cammino di macerazione e di sofferenza. Non è da me certo, da me, essere compagno del calvario altrui. Io sono un viaggiatore, io sono uno che sale, che scende, che si ferma, che osserva, che guarda e che continua ad andare finché il treno va. Le storie che si raccontano in treno non hanno inizio, non hanno fine. Molte volte si raccontano soltanto per ingannare il tempo. Molte volte si raccontano soltanto perché si pensa che un interlocutore neutrale, che poi scompare come il compagno di viaggio, sia in fondo il miglior ricettacolo per le proprie pene, anche perché non te le rinfaccia mai, non te le ricorda mai, anche perché si pensa che il viaggiatore con cui abbiamo diviso parte del viaggio poi scompaia, seppellito da una galleria, seppellito da un cambio di scompartimento, seppellito dal fischio del treno che lascia la stazione. How I wonder what you are.